2001, arrivare a Bologna esattamente a 40 anni e ritrovarsi a lavorare in un posto dove si fa la musica, si fa il teatro, quello nobile dicono, quello alto dicono, e pensare che da ragazzo avresti voluto essere lì universitario a Bologna e te li ritrovi fuori dal teatro ogni giorno quando esci e pensi chissà come sarebbe stato se io fossi arrivato a 18 anni a farlo studente. Ho fatto l'Accademia di Belle Arti qua e da allora non mi sono mosso più. Io ho trovato Bologna, una delle più belle città del mondo da viverci, non mi tolgono da qui neanche con le cannonate. È un avamposto di via Belle Arti e così sempre sarà. Chissà come sarebbe stato se io fosse arrivato a 18 anni a farlo studente. In questo quartiere io ho passato gli anni più spensierati della mia vita, i 20 anni. Chissà come sarebbe stato. Da nottata è stato anche luogo di balli o feste così improvvisate, ballare fino a notte fonda anche con persone sconosciute. Le 2 di notte, lì dall'incrocio tra Belle Arti e Moline, che c'era questa catasta di cartoni da pizza lì dove c'era ancora pizza a casa, e io ero un po' sbronzo, quindi mi ricordo questa scena molto epica in cui c'erano tipo tutte queste cataste che erano tipo il triplo di me, tipo 4 metri di cataste di cartoni che qualcuno si era messo a impilare, e mi ricordo che era stato molto bello, mi sono sentito un po', come dire, in un mondo particolare, mi era piaciuto molto. Infatti il trasferimento di pizza a casa mi ha lasciato un po' orfano, mettiamola così, rispetto a quello. Questo per raccontare un po' che era molto bello, perché poi c'erano gli studenti che si aggiungevano a mettere chi passava la notte, tipo ci aggiungeva dei rifiuti, però lo stava cercando di avere tipo una composizione artistica, no? Un po' casuale, era molto divertente come scena da guardare, io lì appoggiato un po' sbronzo. Chissà come sarebbe stato. Buongiorno! Buongiorno! Beh, tu sei poco sveglio però, eh? No, io sono molto molto sveglio. Sei molto molto sveglio. Sì, buongiorno, sì, sì, e sì, benvenute, sì. Benvenuti alla nostra ormai praticamente terza puntata di 50 minuti di riparazioni, ma secondo me devi dirlo tu. 50 minuti di riparazioni, l'ho detto bene? Benissimo. Stava per partire un applauso da queste parti. 50 minuti di riparazioni, il nostro programma, ormai non dico più nuovo perché siamo praticamente piazzati quasi qua. Vecchio ormai. Quasi vecchio, esatto. Ogni venerdì fino alla fine di giugno va avanti, ci trovate sempre in onda sulle frequenze di Radio Città Fujiko dalle ore 10.30 alle ore 11.30. Come ha detto anche una delle voci di introduzione, le nostre voci del quartiere, non ci spostano neanche le cannonate. Neanche con le cannonate. E infatti noi siamo sempre qui e siamo l'avamposto noi dell'Accademia di Belle Arti, siamo la sua emittente radiofonica. Noi chi siamo? Siamo sempre gli stessi? Giulia Quadrelli e Leo Merati. Siamo, come possiamo dire, i narratori di un grande progetto in cui l'Accademia di Belle Arti ci ha coinvolto, che prende il nome di Riparazioni, progettone fatto di conferenze, laboratori, interventi, happening, chi più ne ha più ne metta, una trasmissione radiofonica, ça va sans dire, la nostra, con cui l'Accademia sta coinvolgendo, si sta mescolando con il quartiere che è proprio fuori dalle sue porte, sta portando la sua attività verso l'esterno e noi la portiamo, oltre che nel quartiere, in giro per la città. Che dire, prima di entrare nel, come si dice, caldo della puntata, ricordiamo... Nel caldo della puntata. Lo senti il caldo della puntata? Sì, già questa introduzione mi ha già proprio immerso nel caldo della puntata. Ti vedo proprio così. Il caldo ricordo della puntata. Caldo, bravo, però non spoilerare. No. Non spoilerare niente, perché lo solo... facciamo dire all'ospite della puntata. Dicevo, prima di acclamare il nostro ospite, poi co-conduttore della puntata, ricordiamo che potete sempre interagire, chiacchierare, sottoporre fatti e questioni sulle nostre puntate alla nostra mail all'indirizzo riparazioni@ababbo.it. Madonna, questa è professionale. Mamma mia. E su questa professionalità di Leo direi che andiamo veramente ad acclamare con un un grande applauso il nostro studente di oggi, perché come sapete, se avete seguito le nostre puntate precedenti, questo programma è interamente realizzato, ideato, creato, fatto qualsiasi cosa con un gruppo di studenti e studentesse dell'Accademia di Belle Arti. Oggi abbiamo il nostro secondo ospite. Un applausone per Francesco Zanlungo. Ciao a tutti, ciao Leo e ciao Giulia. Ciao Francis. Ciao Francis. Come stai? Bene, molto bene. Bene? Sei emozionato? Beh, no, insomma. Zero. No, zero, insomma, perché siamo comunque alla radio, quindi mica pizza e fichi, come si suol dire. Mica pizza e fichi, attenzione. Magari. Mi è venuta fame adesso. E no, ma è un po' di emozione, quella sana emozione ci sta. Anche perché ci hai lavorato un pochino a questa puntata, quindi... Ci abbiamo lavorato tutti insieme, però ognuno di voi, forse ormai si è capito, si è preso a cuore una puntata specifica, quindi sì, ha lavorato su quella. Una tematica in particolare. E oggi finalmente la condividiamo con i nostri ascoltatori. Sì. Due parole su di te, raccontaci un attimo chi sei prima di tuffarci. Che dire, la mia vita è un romanzo. No, diciamo sono uno studente un pochino anomalo, perché sono un po' più grandicello rispetto ai miei compagni. Sei vecchio, ti vedo. Sei un po'... Non sono così vecchio, però sono un po' più maturo, ecco, usiamo questa parola, rispetto ai miei compagni. Buon compromesso. Perché vengo da un percorso anche legato al teatro, infatti. E qua ci incontriamo. Siete maturi tutti e due. Io mi definisco sempre come persona molto matura. Esatto. Dove vi incontrate voi? Beh, noi abbiamo lo stesso percorso di formazione, io e Giulia, teatrale, veniamo dalla stessa Accademia di Teatro a Bologna, tra l'altro, la Galante Garrone. Proprio una fucina di talenti, oserei dire. La migliore. E però sei arrivato qua all'Accademia e hai deciso di... Sì, dopo una serie di cose ho deciso che mi mancava un pezzo di formazione, quindi l'Accademia mi sembrava il posto giusto. E in Accademia hai fatto con noi questo workshop che ha portato a questa trasmissione. Oggi andiamo a raccontare un po' qual è il tema, sempre legato al quartiere dell'Accademia in cui ci troviamo, su cui concentriamo le nostre energie, la nostra attenzione. Di cosa parliamo oggi? Oggi parleremo del ricordo, del ricordare. Puntata nostalgica oggi. Non sta, ma infatti voi che parlavate del vostro percorso... Ti ha già fatto vedere. Ti sei sentito un po' escluso. Ho visto la lacrima prima, che scendeva. Proprio... Ti sei emozionato. Sì, mi sono immedesimato molto in voi. Senti, Francesco, ma visto che parliamo di ricordi, a parte i nostri trascorsi scolastici e teatrali, un ricordo in questo quartiere? Beh, la mia vita artistica bolognese è iniziata al Teatro Comunale di Bologna, in Piazza Verdi. Prima come, diciamo, figurante mimo, poi tramite un percorso di formazione nel Comunale come assistente alla direzione di scena. Perché tu stai andando un po' nella direzione della regia, quindi... Sì, da grande mi piacerebbe anche fare il regista, sì. Quindi i tuoi ricordi qua sono molto legati al Teatro Comunale. Sì, luogo meraviglioso di questi tempi un po' barricato. Io non ci sono mai entrato comunque. Tu non ci sei? No. Tu perché sei uno stolto bergamasco? Io mai entrato, probabilmente mai ci entrerò. No, non è... Vuoi dirci un tuo ricordo di questo quartiere, Leo? No, io non ne ho. Non ne hai? Non hai neanche ieri pomeriggio? No. Ieri pomeriggio me lo ricordo. No, dai, andiamo avanti. Andiamo avanti. Cosa ci ricorda il quartiere. Andiamo a raccontare un po' questo quartiere intorno all'idea, al concetto di ricordo. Francesco, diciamo che nella tua indagine subito ti sei imbattuto in quello che è un anno centrale nella memoria collettiva di questo quartiere, ma oserei dire anche di tutta l'Italia, bolognese, ma di tutta l'Italia. E stiamo parlando del 1977. In particolare, quando si affronta questo tema del 77, è inevitabile andare a parare sulle contestazioni studentesche che avvennero proprio nel quartiere universitario bolognese, in particolare in quella che è conosciuta come la cittadella universitaria, quindi via Zamboni, Largo Respighi, Piazza Verdi, Piazza Verdi al centro di grandi manifestazioni, della vita universitaria, di scontri, di tante problematiche ma anche bellezze legate a questo quartiere. Riguardo agli scontri rimane sempre abbastanza impressionante, poi ultimamente diverse persone me ne hanno parlato, che l'hanno vissuta in prima persona, l'immagine di Piazza Verdi con i carri armati, con i carri armati. È curioso perché è l'unica città italiana ad aver avuto nell'Italia repubblicana i carri armati è stata proprio Bologna. Sì. E in particolare quando parliamo del 1977 e delle contestazioni che hanno animato questo quartiere, c'è un evento tristemente molto noto, che si parla dell'uccisione dello studente di medicina Francesco Lorusso, avvenuta l'11 marzo del 1977 in fondo a via Mascarella, sì, al civico 37 di via Mascarella. Sei andato un po' a studiare, sì, a vedere, sì, a osservare. c'è ancora insomma c'è una targa che commemora. Va benissimo, un piccolo ricordo scivolata, è difficile. Leo, dillo tu. Commemora. Fa fatica con tante cose, ma su commemora è bravo. Fantastico. Ma vogliamo leggerla, perché molti a Bologna sicuramente ci sono passati tante volte, però se per caso qualcuno non sa di questa testimonianza, sì, questa proprio targa molto importante per questo quartiere, raccontiamo che cosa c'è scritto sopra. La targa cita: i compagni di Francesco Lorusso, qui assassinato dalla feroce armata di regime, l'11 marzo 1977, sanno che la sua idea di uguaglianza, di libertà, di amore, sopravviverà ad ogni crimine. Francesco è vivo e lotta insieme a noi. Sempre emozionante sentire questa tra l'altro è molto curioso perché nelle foto d'epoca, di reportage di quegli avvenimenti, questa ultima frase, Francesco è vivo e lotta insieme a noi, era lo striscione che apriva i cortei. Le foto, quelle famose di Enrico Scuro, sì, Enrico Scuro è stato documentato, è stato uno dei cronisti dell'epoca, uno dei fotografi che hanno, però non è stato l'unico, lui diciamo è quello più conosciuto. E comunque mi veniva in mente ora che anche adesso, proprio in via Zamboni, quindi a due passi qua dall'Accademia di Belle Arti, su il muro di Palazzo Paleotti, via Zamboni 25, tutt'oggi c'è un'immagine di Francesco, sì, dove sotto c'è questa frase, Francesco è vivo scritta. E lotta insieme a noi. E dopo questo primo escursus storico del quartiere dell'Accademia, direi che è arrivato il momento di ascoltare un po' di musica. Sì, sì, qualcosa che ci aiuti anche a far sedimentare quello che abbiamo ascoltato fino adesso, no? Ti ricordi, a proposito di ricordi, che cosa lanciamo? Ricordo io? Lanciamo una canzone dei The Middle East, Blood. Lucky streets on your fire. Bellissimo pezzo. Beh, un bellissimo pezzo, ringraziamo come il sempre grande Daniele Di Feo. Non esagerare, Leo, col grande per tutte le musiche, per tutte le scelte, nostro direttore artistico musicale. Di cui, come diciamo sempre, non sentirete mai la voce, ma le meravigliose scelte musicali. Sì. Stavamo dicendo con Francesco Zallungo, che è qua con noi, stavamo parlando dell'immagine di Francesco Lorusso, che ancora oggi c'è sui muri di Palazzo Paleotti. Piazza Verdi, sì. Piazza Verdi, via Zamboni 25, e parlavamo del fatto che in realtà questo quartiere è molto legato anche a una narrazione dei muri, dei cioè muri, i muri parlano della storia di questo quartiere, no? Sì, sì, i muri sono la pelle viva della città, in particolare di questo quartiere, come anche la nostra docente in accademia, Fabiola Naldi, che hai avuto l'occasione di intervistare, che adesso beh, è una nostra docente di corso e quindi ne ho approfittato. E braccata! Come c'era, l'ho braccata, l'ho placcata. E in particolare l'ha intervistata su un'opera di cui, ammetto, io non ero nemmeno a conoscenza dell'esistenza, non sapevo che ci fosse stata. Non esiste più, perché è stata coperta. Si tratta del famoso murales del treno, che era stato disegnato sui muri esterni dell'Accademia di Belle Arti, sotto il portico, proprio dagli studenti dell'Accademia stessa. E proprio durante le giornate di contestazione del 77. Durante il marzo del 77, sì. Che cosa le hai chiesto? Beh, le ho chiesto appunto di parlarci un po' di questo murales del treno, di che cosa rappresentava, perché i muri della città di Bologna raccontano, come lei stessa ci dice, e anche e soprattutto perché non esiste più, perché è stato cancellato. Bene, sentiamo allora che cosa ti ha risposto. Avvennero molti murales tra la zona, diciamo, di Via delle Belle Arti e Via Zamboni. Chiaramente il murales, chiamato così, del treno di Via Belle Arti, chiaramente di fianco al portone d'ingresso dell'Accademia di Belle Arti, era realizzato dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti. In realtà però, nello specifico, è impossibile dire quanti parteciparono perfettamente inseriti dentro al contesto accademico e quanti invece avevano invece collegamenti con Via Zamboni 33, cioè quindi con gli studenti invece universitari. Quello era un momento in cui l'espressività murale veniva utilizzata come il luogo prediletto per raccontare ciò che stava capitando, per esprimere ciò che non andava bene, per in qualche modo ancora di più sottolineare quelle che erano le grandi ingiustizie che in quelle manifestazioni, in quei cortei, in quel grande momento del 77 fu portato avanti dagli studenti. Il treno ha una storia abbastanza interessante, nel senso che non è una cosa preparata in pochissimi giorni. Certamente la morte di Francesco Lorusso l'11 marzo del 77 porta a un'accelerazione di questo intervento, che viene concluso il 25 marzo del 1977. Diciamo che dall'11 marzo al 25 marzo accadono le peggio cose e le cose anche più interessanti. Il treno fu pensato per essere una protesta da parte di buona parte degli studenti dell'Accademia di Belle Arti nei confronti di un lavoro che non esisteva già allora. avvennero in quegli stessi anni un insieme di convegni che mettevano in discussione sia la figura dell'artista ma anche la figura del critico e quindi il ruolo del critico d'arte, chiaramente, come ruolo dell'artista in un momento storico estremamente complesso. La città di Bologna ha sempre parlato attraverso i propri muri, è una caratteristica proprio della città di Bologna, è una delle caratteristiche che vengono addirittura studiate anche in Europa. Quindi dalla scritta tipicamente ideologica degli anni fine 60, inizio 70, si è passato a una tipologia di scritta molto diversa. Certamente tutte queste scritte, fino ad arrivare ai murales, quindi qualcosa di ragionato, pensato e realizzato anche con dei tempi differenti dalla semplice scritta che può essere assolutamente quasi istantanea. Il muro è murales, quindi ha un aspetto figurativo. La volontà di coloro che realizzarono quel treno, che è rimasto nella memoria storica di chi l'ha potuto vedere, era in qualche modo di evidenziare il fatto che si preparavano alla vita delle generazioni che avevano competenze fondamentali, che si sono poi dimostrate competenze fondamentali, ma che in una logica di profitto non erano, diciamo, tra i primi coinvolti. E il dibattito era molto più largo, chiaramente, non riguardava solamente gli studenti dell'Accademia, riguardava un'intera generazione studentesca che chiedeva ascolto, libertà, possibilità di espressione. E il fatto che gli studenti dell'Accademia di Belle Arti siano stati così partecipi e così attivi è dato anche dal fatto che questa, chiamiamola rivoluzione, e quindi tutto ciò che appartiene al movimento del 77, fu fatto in un modo particolarmente creativo. Ma la volontà, a partire dai primi anni degli anni 70, fu quella di utilizzare anche un certo tipo di linguaggio, di retorica, molto cara alle avanguardie storiche di inizio Novecento. I fotografi Scuro, Nadalini e molti altri sono quelli che in qualche modo hanno raccontato in maniera, no, da cronista perfetto, oppure ci sono coloro che avevano l'età giusta per poter ricordare, che hanno in qualche modo documentato a proprio modo. Quello che a noi resta sono alcune immagini a colore, molte immagini in bianco e nero, di un intervento meraviglioso. Da qualche parte, sotto diversi strati di epidermide del muro, c'è ancora quel treno. Ecco. Tutte le forme di espressione libera, illegale e controculturale, perché ricordiamo che questo è un movimento controculturale. Le controculture, più che le underground, no? Noi spesso utilizziamo per quel periodo storico le culture underground, cioè le culture sotterranee, cioè quelle che non vedi, se non sono le stesse culture che si mostrano fino poi ad arrivare a essere di superficie. E qui invece si parla di culture, di controculture, cioè di qualche cosa che accadeva in modalità completamente opposta a ciò che allora si intendeva come cultura, che è alla base delle avanguardie, che è alla base proprio dell'intento e dell'istinto avanguardistico. Non esistono più perché inevitabilmente la città si modifica, si trasforma, si pulisce, meno di quanto si creda, ma certamente quel periodo storico fu un periodo cancellato in maniera molto veloce. E lo dimostrano anche poi i fatti successivi, il grande irrigidimento successivo. Fu una grande vittoria, un grande fallimento. E credo che coloro che l'hanno vissuto quel periodo lo possano ancora raccontare. Restano, diciamo, questi momenti che oramai sono diventati quasi mitologici, no? Perché hanno superato 40 anni di vita e quindi vengono ricordati anche forse in maniera fin troppo eclatante. Lì però accadeva quel lì ed ora, no? Cioè accadeva tutto istantaneamente, quindi io non so quanto loro realmente riflettessero a lungo termine, agivano perché era giusto farlo in quel momento, e l'azione istantanea appartiene alle avanguardie storiche, perché l'avanguardia è quella della prima linea, quella che agisce immediatamente. E negli anni e nei decenni invece la storia è cambiata, e le modalità in cui poi loro hanno agito, non solo queste stesse figure, ma anche le generazioni successive, che sono chiaramente cambiate. ringraziamo davvero Fabiola Naldi per questo intervista interessantissima. Ero presente, è stato proprio, proprio voi due l'avete fatta insieme. Sì. Anzi, personalmente sarei rimasto lì tantissimo, perché poi è una miniera di informazioni, di conoscenze, quindi è proprio un piacere ascoltarla. E purtroppo il programma si chiama 50 minuti di riparazioni, quindi dobbiamo fare i conti con questa scadenza, però abbiamo imparato tantissime cose nuove. Adesso direi che facciamo una piccola pausa, è arrivato il momento di lanciare la pubblicità. E siamo ancora qua, sempre su Come Radio Città Vasco Fuji, Rossi. Perché tu sei grande fans, anche io. E siamo ancora qua, 50 direbbe, minuti di riparazioni. Siamo solo noi. No, non siamo solo noi, c'è anche Francis. Francesco Zallungo qua con noi oggi per la puntata Ricordare. Ma purtroppo, scusate, vedo anche che oltre a Francesco Zallungo c'è qualcuno che speravo oggi come non... purtroppo? Speravo che oggi... cioè, sarebbe anche il mio lavoro, era... Guardi, signor Duccio, non siamo proprio d'accordo sull'accezione di lavoro. Poi lei non è proprio un lavoratore. Vabbè, purtroppo sono delle vesti che devo temporaneamente indossare. Quelle di... operaio. Ma no, non è operaio, ci ha detto un'altra cosa la puntata scorsa. Ah sì, dicono assistente alla didattica. Ci hanno affibbiato questo assistente alla didattica dell'Accademia di Belle Arti che deve fare, quante ore deve fare con noi? 200. 200? Soltanto. E quante ne ha già fatte? Un po'. Un tot. Un po'. Qualcuno, qualcuno conterà, qualcuno le sta conterà. Segnando? Sì, ciò chi me le segna, diciamo così. Perché c'ha degli ascendenti un po' nobiliari, si dice ascendenti nobiliari, no? Origini nobiliari, scusi. Sangue blua, c'è il sangue un po' blu il nostro signor Duccio. Senta, noi non so se è arrivato in tempo per accorgersene, stiamo affrontando la puntata Ricordare. Belli ricordi. È l'unica cosa che mi rimane ormai, rifugiarmi. Donna, ma veramente che cattivo umore. Lo so, però, ho capito, mi tocca lavorare, cosa devo fare? Torno a casa, mi rifugio nei ricordi. Si rifugia nei ricordi, tutti quanti siamo qua per lavorare. Senta, ha fatto qualcosa per questa puntata? Ha fatto un po' di ricerca in redazione lei? Sì, io ho messo 77 su Google. Ah, perché ha sentito che parlavamo del 77. Mi è uscito le gambe delle vecchie. Ma cosa c'entra con i ricordi? Ah, io ho scritto 77, non è che... Poi mi è uscito... insomma, quel che... E poi mi è uscito... Jimmy Carter, nuovo presidente degli Stati Uniti. Lei lo sapeva? Sì, io veramente lo sapevo. Dicono però... che internet dice che è una roba. Sì, poi però a Catanzaro, il processo per la strage di Piazza Fontana, sembra una cosa brutta. Poi a Parigi invece il Centre Pompidou, in onore... Centre Pompidou, veramente. Vabbè, insomma, sempre... Da dove vieni, anche per me Centre Pompidou. Grazie. Perché a Bergamo e a Lucca parlate la stessa lingua. Sono sullo stesso meridiano. Ho anche scritto 77 Lucca, perché non sia mai che non andiamo a indagare Lucca. Ho scoperto Lucca, che appunto è una roba allucinante, che una cosa che io di solito sono contrario, cioè di questi giovani che occupano i posti, no? Sai come fa, che vanno lì? Cosa vanno lì dove? Vabbè, io a me piace, perché poi dopo arriva la polizia che li sgombra. Vabbè, comunque, non è la parte proprio più bella. Nel 77 a Lucca è stata occupata questa villa Bottini, che era una villa di un mio amico, un po' tutta rovinata perché non ci viveva più nessuno. E sti ragazzi l'hanno risistemata, poi il comune l'ha comprata, l'ha rimessa al posto, perché questi ragazzi hanno detto al comune: ci sa sto posto, facciamoci qualcosa di bello. E poi com'è andata a finire? Che ora infatti ci fanno molte cose, molti eventi, concerti, robe. Ah, da allora che l'hanno occupata ancora ci fanno delle cose. Ma non è che per caso hanno occupato anche la sua di villa? Spero vivamente di no, perché c'avevo anche delle cose, insomma. Ma non aveva perso tutto lei? Penso sì, ho perso tutto, ma nelle mura avevo una scuola. Vabbè, comunque è importante. Senta, l'unica cosa vorrei dire, sempre molto grazie per il suo contributo fondamentale. È stato un piacere conoscerla. Senti Francesco con la voce gutturale. Me lo dicono spesso che è un piacere. È stato sicuro? Sì, me lo dicono, insomma. E parlano con lei. Ma noi stiamo parlando però di ricordare nel quartiere dell'Accademia. Ha citato tutto, dalle lezioni di Carter a, mi ricordo, il Centre Pompidou. Lucca. Naturalmente Catanzaro. sarebbe meglio, nel tempo che ci rimane, che lei ci aiutasse a fare una ricerchina magari sul quartiere dell'Accademia. Un'altra volta. Un'altra volta. Questo è il nostro programma, parla di questo didattica. Quartiere. Scriverò a internet 77 quartiere. Bravo. Scriva proprio così, 77 quartiere. Ma non importa che sia del 77, è più importante che sia del quartiere, poi veda un po' quello che trova. Beh, chiederò a internet. Magari non si affidi troppo alla smorfia, alla tombola con i numeri. No, io chiedo a internet, a Google. Lui chiede a Google. Detto a Google. Google. Mi hanno detto così. Bravo, grazie signor. Buon lavoro allora. Grazie. Buon lavoro. Anche a voi. Bene, mentre il signor Duccio scrive a internet per fare una bella ricerca e aiutarci, noi andiamo avanti con la puntata, visto che abbiamo un'altra bella intervista da condividere con chi ci sta ascoltando. Abbiamo intervistato una leggenda. Leo piacciono questi termini altisonanti, però è vero che abbiamo intervistato un personaggio quantomeno sì. Singolare, ma anche conosciuto. Lo chiamano lo Smilzo. Non ha un nome alla è non lo Smilzo. Non gli abbiamo chiesto perché è stato talmente spontaneo e semplice rivolgersi a lui come lo Smilzo e quindi lo teniamo così. Come mai abbiamo chiamato questa persona a raccontarci un po' di cose in una puntata dedicata al ricordare? Beh, intanto ringraziamo Chiara, nostra compagna, che ce l'ha presentato. Esatto, avrete modo di conoscere anche lei, perché sarà con noi nelle prossime puntate. L'abbiamo voluto intervistare perché lui è un testimone di come questo quartiere, avendolo vissuto tanto negli anni 80 e negli anni 90, è stato un testimone di come questo quartiere è cambiato. Di quello che è successo, dei fenomeni anche importanti, esatto, di questa zona. Come la città ha vissuto il post 77. Abbiamo voluto parlare con lui anche un po' per differenziare la tipologia di voce. Dopo Fabio Lanaldi, docente all'Accademia di Belle Arti, lo Smilzo è un pochino più voce della strada. Sì, un personaggio più vicino a noi. E diciamo. Che cosa gli hai chiesto? Beh, per esempio, la prima cosa che è stato spontaneo chiedere è i luoghi d'incontro. Quali sono stati per lui i luoghi d'incontro? Io sono arrivato qui nell'81, che avevo 16 anni, e venivo da un paesino dell'Alto Adige, da Bressanone, e uno dei miei obiettivi principali erano: uno, conoscere persone, ragazzi, possibilmente della mia età, e cercare di suonare, che era uno dei miei obiettivi fondamentali dell'essere qui a Bologna. Per cui una delle zone che io frequentavo era la Piazza Verdi, dove c'erano due locali, in particolare il Piccolo Bar, che dove c'è ancora il Piccolo Bar, che allora era molto diverso, era tutto rivestito di legno, che aveva due monitor, che sembra una roba ridicola adesso, però uno dei primi locali che ti facevano vedere dei video musicali. E di fronte c'era il Caffè del Teatro, che adesso non c'è più, è chiuso, era proprio all'angolo fra Largo Respighi e Via Zamboni, e lì faceva dei concerti di gruppi bolognesi assolutamente sconosciuti, ai più ovviamente. Non particolarmente gruppi punk o di altra scena, che era più quella che seguivo io, che invece aveva in una via vicina a Via Belle Arti, e altro punto di ritrovo era il posto che avevano la Laura De Lauris e Giampi Velena, si chiamava all'epoca, adesso si chiama Elena Velena, avevano questo posto, il Necronomico, che era una serranda che tiravi su, e loro lì avevano la sede della Tac Punk Record e facevano produzioni e distribuzione di dischi di gruppi molto underground. Non era un negozio vero e proprio, era un punto di ritrovo dove tu andavi lì a fare le chiacchiere e la Laura ti raccontava, Gianfi ti raccontavano dei loro viaggi, erano più grandi di noi, per cui dei viaggi che avevano fatto, dei gruppi che conoscevano, loro conoscevano fra l'altro tutti i gruppi e le persone che per me erano degli idoli. Per cui ti raccontavano, ti davano le base dove andare, se andavi a Londra, dove andare. Tutte delle dritte che per noi era oro colato, per cui quello è stato un incontro molto importante. E poi c'era il punto di ritrovo di tante persone che gravitavano intorno a non solo alla loro etichetta, che per dire ti potevi trovare i CCCP che veniva lì a parlare degli affari loro, e come potevi trovare lo scalzacani come me che andava lì a curiosare, non comprava mai niente, neanche un disco, non avevo neanche il giradischi, se per quello, però stavo lì ore e ore a chiacchierare e conoscere gente. Era un punto di ritrovo sociale, diciamo. Bella questa immagine dei punti di ritrovo, questa sì. idea anche di avere dei luoghi in cui passare delle ore e dove incontrare potevi trovare delle persone che per te erano appunto degli idoli, come ci ha raccontato lui. Esatto, anche trovare persone con cui riconoscerti sì, e coltivare gli stessi interessi. Che hanno interessi. Lo stesso linguaggio, parlano delle esatto, stesse cose. Esatto, però so che gli hai chiesto anche delle altre cose. Sì, un'altra cosa, visto che comunque la zona di Piazza Verdi, gli abbiamo chiesto lui come viveva Piazza Verdi, come ha visto cambiare questo posto. Ci sono stati dei tentativi, c'era un centro sociale in Piazza Verdi, il Pelle Rossa, dove c'è adesso il... Prima c'era una mensa, adesso c'è il... Le scuderie, esatto, lì c'era un centro sociale, il Pelle Rossa, che ha portato un po' di aria fresca, diciamo, alla piazza. Però è durato quel che è durato, anche quello, adesso non te lo so dire perché non me lo ricordo, ma non è durato tanto. Per il resto la piazza, ti dico, a me piaceva quando ero ragazzotto perché comunque trovavi da socializzare con varie persone di vari tipi, varie stazioni, c'era dai vecchi compagni agli indiani, i residui degli indiani metropolitani, a noi che eravamo i primi panchettini, qualche schinone che iniziava a girare, però avevo 20 anni, per cui una certa curiosità. Adesso ne ho quasi 60, la vedo in un'altra maniera, però magari un ragazzo di 20 anni se la vive a bomba ugualmente la piazza. Non hanno l'esigenza, non vedo l'esigenza che avevo io di creare un posto mio dove farci delle cose assieme ad altri. Era una cosa che noi avevamo un'esigenza tremenda di questa cosa, un centro sociale dove poter fare la nostra musica, farla in un posto nostro, registrarla, distribuirla. Adesso fra l'altro sarebbe anche molto più semplice. Qui avevamo l'esigenza proprio di posti dove provare e sperimentare queste cose. 68 e 77 erano i fratelli più grandi che ci dicevano sempre loro avevano fatto qualcosa di più figo, più intelligente, più di spessore maggiore al nostro, che eravamo frivoli. Ed era vero, perché eravamo frivoli, però non ne volevamo mezzo di avere sempre il fratello più grande che ti rimbrottava perché eri un cazzone, capito? Avevamo, cioè, un posto nostro anche per divertirci, far casino alla nostra maniera. Beh, è giusto. Comunque è giusto. Questa è una zona dove, oltre a tanta storia, c'è anche un po' di movida, un po' di da frivolezza. Da divertirsi, ma anche zona... la voglia di stare insieme, proprio, è un po' l'identità di questo beh, quartiere. Sì, incontri, scontri di vita. Io ho tanti ricordi di frivolezza, anche personali, mai eccessivi, naturalmente, in questa zona. E poi abbiamo un'ultima parte della chiacchierata con lui. Sì, l'ultima parte della chiacchierata è stata anche questa molto interessante, che ci dà un po' una panoramica di com'era lui, di quello che ha vissuto lui nella giovinezza e di quello che è adesso questo quartiere, e anche di quelli dei luoghi di aggregazione che lui ha visto all'epoca e adesso. E di che cosa è successo nel frattempo? C'è stato anche il TPO, quello, il primo TPO, che era proprio qui, fra l'altro che frequentava questo posto qui, perché erano tutti studenti dell'Accademia che avevano occupato, secondo me, uno dei posti più belli che c'è stato a Bologna. L'isola, per dire, nel cantiere era tutto hardcore. Invece lì facevano una scelta musicale molto più vasta, molto più interessante, però alla fine li hanno cacciati via. Insomma, questi posti qui sono sempre poi centri di aggregazione, non solo di chi li fa e li frequenta, ma potrebbe essere anche per gente più giovane che non ha posti dove sbattersi. Io vedo i ragazzetti adesso, non so, sì, si accontentano, capito, ma non hanno un posto dove andare, non hanno posti dove andare. Quei posti, che tentativi che sono stati fatti, sono stati miseramente chiusi. No? Adesso ci sono questi gruppi di maranza, li chiamano, no? Questi ragazzini, queste baby gang, con 10-15 ti cercano, e lo vedono come un problema di polizia e non come un problema sociale. Qui casca l'asino, e purtroppo io ti sto parlando di robe che sono successe 40 anni fa e stiamo ancora parlando delle stesse identiche cose. Ringraziamo ancora lo Smilzo per queste parole, tra l'altro molto interessanti per un progetto come il nostro, che si inserisce all'interno di Riparazioni, che nasce proprio da una riflessione su questo quartiere e anche sulle fragilità, specifica di questo quartiere, ed è bello sentire nelle parole dello Smilzo come a volte alcune problematiche, alcune criticità in realtà poi sono strettamente collegate alle possibilità che si offrono alle persone, in particolare alle persone giovani che in questo quartiere sono veramente il motore, studenti, studentesse, ma anche non, come ci racconta lo Smilzo stesso. E a proposito però di ricordi, un po', non vogliamo dire nostalgia perché non è l'obiettivo della puntata, però ripercorrere anni e anni della città del quartiere, lanciamo il prossimo pezzo. Ah, musica? È il tuo momento, Leo, quello della musica. No, lancia tu. Lancio io? Le scelte vengono sempre dal meraviglioso Daniele Di Feo. Il pezzo è Gli anni. Attenzione però, in una versione particolare. Grande questa versione di Colapesce degli anni. Grande Daniele Di Feo. Vabbè, adesso incensiamo anche... Ricordiamo anche che non è il suo studente preferito. I nostri collaboratori. A proposito dei nostri collaboratori, chissà dove è finito il nostro assistente alla didattica. Eccomi. Ah, è qua, signor Duccio. Non vi libererete di me. Lei è contento di si essere la nostra. Stiracchiando, insomma. Sì, si sta stiracchiando. Ha fatto finta di andare a fare ricerca. In realtà No. Ho chiesto a internet, gli ho chiesto veramente diverse cose. Ma guardi che internet non è una persona a cui si chiede qualcosa. Vabbè, io chiedo, lui risponde. Vabbè, lei è un po' confuso in senso spazio-temporale di logica. Insomma. Cosa ha trovato sul tema ricordare legato al quartiere? Ma allora, ho trovato questa cosa strana, questa roba, questo evento particolare, che c'è sta foto di questi orti in piazza Puntoni. Lei lo sapeva? No, come c'è una foto? Ma come, lei non sa niente? Adesso si allarghi. Potrei farlo io al suo lavoro, vabbè, comunque. Avevo capito che facesse fatica a lavorare, adesso vuole anche il mio. Ormai con questo lavoro piano prendo... Ci sta prendendo gusto, la vedo a suo agio. È quasi piace, vabbè. Ma come sta cosa degli orti? Sì, in pratica, durante la Seconda Guerra Mondiale, siccome la gente moriva di fame, no? Allora il comune... ha deciso di istituire questi orti di quartiere negli spazi vuoti della città. Io, quando ho visto la foto, un po'... Perché è una bella iniziativa. Un po' storto la... Ma secondo me è proprio un deturpamento urbano senza precedenti. No, ma hanno rovinato tutte le piazze, i giardini, cioè tipo i giardini Margherita, Villa Putti. Insomma, coltivavano da tutte le parti. Capito, signor Duccio, mi sembra che l'estetica sia sempre importante, però in alcuni momenti questo è stato fatto per salvare le persone che non avevano di che mangiare. No, e sicché anche qua nel nostro quartiere li allestiscono questi orti nella piazza Puntoni, qua dietro l'Accademia. Ah, la piazza. Come si vede dalla foto, cioè il paesaggio era una roba oscena. Perché com'è la foto, scusi? Ci sono tutti sti campi con i palazzi dietro. Sono dei campi, c'è una foto con dei campi. Sì, c'è proprio del grano, del... non so come li chiamano loro, vabbè. Come li chiamano loro? Quelli che lavorano lì. Vabbè, lo sa. Basta con queste discriminazioni dei lavoratori, adesso anche lei è un lavoratore. Sì, vabbè, non sono... Vabbè, comunque, insomma... Io sono rimasto un po' perché il contesto rurale del contado lì che entra e contamina la maestosità della città stessa, cioè è come se a un ballo delle debuttanti all'improvviso si decidesse di indossare le infradite Bermuda, ma le pare il caso. Se questa similitudine col ballo delle debuttanti faccio un po' fatica a immedesimarmi. Ma che lei non c'è mai stata, lei non è mai stata introdotta in società. Parte. Vabbè, comunque, ora, al di là dell'inquinamento estetico dell'evento, diciamo, in realtà la foto mi ha anche fatto sorridere dopo. L'ha fatta sorridere, a proposito di ricordi, mi ha proprio fatto ricordare di quando, di quando ancora... Di quei bei tempi, quelli di Lucca, immagino. Sa quelle giornate, no, un po' uggiose, che uno si sveglia di cattivo umore. Ma come, allora non è un bel ricordo, scusi. No, aspetti, perché io per tirarmi sul morale andavo lì nelle mie piantagioni, sai, che avevo. Che aveva anche... Sono diventate piantagioni. Sì, sì. È diventata una tenuta in Texas. Avevo della roba, dello spazio. Vabbè, comunque, andavo lì e gli dicevo, no, ai miei abbraccianti, presente come sono quando lavorano nel fango, braccianti, tutti sudati, no, nelle loro salopette sdrucite, tutti sono carini. Comunque andavo lì e gli dicevo che avrebbero avuto il giorno libero, no? E loro lì a ridere, a gridare, sa quei suoni di giubilo che fanno, vabbè, no? Per forza, tutti siamo felici quando abbiamo il giorno libero. Esatto, solo che appena finivano di festeggiare, gli dicevo che avrebbero lavorato anche a Pasqua e a Natale. non può capire. Ma lei è un santo. Quante risate che mi faceva. Ma qui la CGL, delle risate male fa caso. E subito mi sentivo proprio benissimo, quella gioia, quei loro volti corrucciati, le lacrime che si fondevano al sudore, gli dicevo, ma che sa come che siete, gli dicevo. Ma persona bietta, signor Duccio. E subito la giornata diventava... A lei è così, è felice così? Sì, sì, sì. Allora noi adesso la mettiamo a lavorare doppiamente. Infatti sono contento che non possano vedermi adesso in questo degrado sociale del lavoro. Qui è costretto a stare con noi. Esattamente. Era partito bene con questa bella immagine degli orti. La giornata uggiosa. Si è un po' perso nei suoi così. Ah, voi avete parlato di ricordi tutta la puntata. Io arrivo a dire un mio ricordo e subito. Abbiamo parlato anche di tematiche sociali importanti. Però giusto, è un ricordo. Adesso Leo, non fare l'avvocato del diavolo. Grazie, Leo, il signor Duccio. Comunque lo sappiamo. Chi è l'autore di questa foto, di questa immagine non degli c'era orti? Internet, non lo sapevo. L'ha chiesto a internet. Lo sai, mi ha detto no. Magari lo sanno i nostri ascoltatori e possono inviare una mail a riparazioni@ababo.it. Attenzione Leo, che tempismo! Scriveteci allora, se qualcuno ne sa di più di questa immagine, scriveteci. Guarda come gongola adesso. Guarda come gongola, lui è il signor Duccio. Beh, direi che con questa bellissima uscita del signor Duccio, un po' cattivella nei confronti dei suoi lavoratori, siamo arrivati alla fine della puntata. Sì, esatto, fine, però... Forse c'è l'ultimo momentino piccolo in cui noi piccolo. Vi ricordiamo alcune piccole cose. La rubrica si chiama Non solo birrette. Che cosa accade nel quartiere dell'Accademia dal 26 maggio al 2 giugno? Fine mostra l'altro rinascimento a Palazzo Poggi il 28 maggio. Di verde in verde, caccia aperte ai giardini privati delle città più belli. Galleria B4, mostra di Andrea Viviani, Stagioni, ingresso libero fino a giovedì 1 giugno, dal martedì al sabato, dalle 17 alle 20. 27 maggio, ore 18, al Giardino del Guasto, presentazione di Casa Granda, un libro di Orfeo Lorenzon, dialogo con l'autore a cura di Margherita Traldi. E ricordatevi di tenere sempre sott'occhio il sito dell'Accademia Babbo.it, dove potete trovare tutti gli aggiornamenti sul progetto Riparazioni. Senti che voce, proprio da annunciatore chiudiamo radiofonico. Con una voce davvero non come le nostre. Ringraziamolo. Ci salutiamo. Grazie Francis. Grazie a Francesco Zallungo per essere stato con noi nella puntata a ricordare. Grazie al signor Duccio. Ah ecco, stavo aspettando. La vedevo già un po' perplesso. Vuole salutare i nostri ascoltatori? Ciao. Ah, okay. Ciao, laconico. Ci vediamo venerdì prossimo, 10:30, 11:30, solo su Radio Città Fujiko. Ciao, buona giornata.